Punto alla rovescia. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti al terzo appuntamento con Conto alla rovescia. Dopo le giornate dedicate al lancio del satellite italiano per l'osservazione della Terra Cosmo SkyMet 4, ora in orbita per conto dell'ASI, e anche a quelle del mancato lancio dello Shuttle Discovery, che ora attende almeno fino al 30 novembre l'intervento riparatore sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center, vediamo quali sono le ultime dalle piattaforme di lancio e non solo. Partiamo naturalmente, direi, dalla sonda della NASA Deep Impact, che ha intercettato perfettamente, direi, il nucleo della cometa Hartley alla distanza minima prevista di sicurezza di 700 km. L'incontro ravvicinato è avvenuto a circa 15 milioni di chilometri dalla Terra. Giampaolo Tozzi, astrofisico dell'Osservatorio di Arcetri, attualmente al telescopio ESO del Paranal in Cile, proprio per integrare i dati della sonda con quelli raccolti a terra, spiega a Chiara Albicocco l'importanza di questo avvicinamento. Le comete sono estremamente importanti perché sono le cose più antiche che esiste nel Sistema Solare, ci possono dare informazioni preziose su come è nato il Sistema Solare. Il problema delle comete è che il nucleo da osservazione da Terra non si riesce mai a distinguere, si vede come un puntino, e le missioni spaziali sono essenziali per vedere come è fatto il nucleo, come funziona la cometa. E per esempio questo fino a ieri erano state visitate solo 4 nuclei di comete, e poi quello che è risultato, poi ognuna è diversa, sono completamente diverse le comete l'una dall'altra. E poi un altro punto essenziale che è importante è che si suppone che le comete abbiano circa 4 miliardi di anni fa abbiano portato i mattoni primordiali da cui poi si è formata la vita, perché sulle comete esistono molte materie organiche che 4 miliardi di anni fa non si potevano formare sulla Terra perché le condizioni erano molto difficili. Per cui questa è un'altra ragione per cui è importante studiare le comete e capire quanta materia organica c'è nei nuclei delle comete. Le immagini che abbiamo visto di questa cometa Hartley è una specie di grossissima nocciolina americana con degli sbuffi di vapore e ghiaccio. Sì, infatti appena visto sono rimasto molto eccitato da questa cosa, perché sembra quasi un sigaro, si vede da una parte, dalla parte esposta del sole, sta uscendo tutto questo materiale, acqua e polvere. Era già stato visto che questa cometa aveva qualcosa di strano, cioè aveva un periodo ogni 16 ore mandava degli sbuffi tremendi, e probabilmente nella parte che vediamo lì dalle immagini, quella esposta al sole, da dove vediamo uscire il materiale, la cometa ruotando, quando esponeva questo materiale più attivo al sole, venivano emesse tutte queste particelle, e il sole scaldando fa vaporizzare l'acqua, e l'acqua porta tutta la materia intorno nello spazio, polvere e altro gas. Grazie a Giampaolo Tozzi. Torniamo dunque in Florida, dove è stato rimandato, ai noi, anche l'anticipo di futuro che viene messo a punto attraverso il progetto di SpaceX di Elon Musk. Insomma, il test fly della navicella spaziale Dragon, che dovrà essere testato con il suo lanciatore Falcon 9, è ora previsto per il 7 dicembre. Atteso per il 15 dello stesso mese è invece dal cosmodromo russo di Baikonur il via alla missione di lunga durata alla Stazione Spaziale Internazionale, cui partecipa Paolo Nespoli. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea ci è apparso in grandissima forma la scorsa settimana quando è passato per un saluto ai suoi concittadini. Sapete, Nespoli è della provincia di Milano, l'abbiamo incontrato al Museo della Scienza. Qualche paura, Nespoli? Ma guarda, se c'è ansia non è sicuramente nel lancio sulla stazione, ma è più sul fatto che sono cosciente del fatto che questa è una missione di 6 mesi. Mi sento che mi viene dato un compito molto importante. È successo durante l'addestramento che per disattenzione o per quello che è non sono riuscito a portare a termine un esperimento o ho spaccato qualcosa, e la paura più grossa è quella di arrivare in orbita e di rompere un esperimento che è costato anni anni e anni di lavoro a scienziati, costato tutta una serie di soldi e di cose. Se c'è un po' di attenzione di cose, è questa la paura. Grazie a Paolo Nespoli, naturalmente in bocca al lupo, continueremo a seguire questa importante davvero missione, lo ricordo, di quasi 6 mesi in orbita alla Stazione Spaziale Internazionale. L'appuntamento con Conto alla Rovescia è per la prossima settimana, un saluto. 3, 2, 1. We have ignition.